Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, bentornati a Smart City. IC, Innovazione Culturale, è un concorso di idee organizzato da Fondazione Cariplo per favorire la nascita di nuove imprese culturali che prevede per i vincitori un finanziamento fino a 100.000 euro. Tra le 10 proposte che quest'anno, siamo alla terza edizione, hanno maggiormente colpito la giuria, ce ne sono due di cui vogliamo parlarvi tra stasera e domani sera e che si caratterizzano entrambe per il fatto di applicare le tecnologie digitali al mondo dei disordini cognitivi. Questa sera parliamo di Red Runner, che affronta il tema della dislessia, un disturbo dell'apprendimento tra i più diffusi che comporta grandi difficoltà nella lettura. Ci facciamo spiegare tutto dalla coordinatrice di Red Runner, Cristina Perillo. Buonasera Perillo. Sì, buonasera. Senta, allora parliamo di uno strumento che si concretizza, che è un po' come punto di sbocco, diciamo così, un'app che è quella che aiuta fisicamente la persona che ha difficoltà a leggere a migliorare. Allora, partiamo da qui, se brevemente ci spiega come funziona. Sì, allora l'app è lo strumento che viene dato al bambino, noi lavoriamo con i bambini fra gli 8 e i 14 anni, può essere scaricata su qualunque smartphone o tablet e permette al bambino di fruire i testi, al bambino con difficoltà di lettura, principalmente bambini con dislessia, ma non solo, gli permette di fruire il testo in maniera che sia impaginato in modo da facilitarlo, quindi sia per interlinea che per carattere. Allo stesso tempo al bambino viene richiesto di leggere ad alta voce portando il segno con il dito. Mentre legge portando il segno con il dito, il testo cambia di colore in modo tale da dare al ragazzo dislessico un riferimento spaziale in più, perché i riferimenti spaziali per il ragazzo dislessico aiutano. Certo. Aiutano moltissimo. Inoltre c'è anche un galletto che va sotto la riga e che detta al ragazzo la velocità che dovrebbe leggere, o per età oppure per diagnosi, se esiste la diagnosi di un terapista. Mentre il ragazzo continua a usare Read Runner, il sistema impara, ne impara le abitudini, ne impara i comportamenti e quindi calibra la velocità di lettura sul comportamento del ragazzo, sempre un decimo di secondo in più delle sue possibilità, in modo tale da sollecitarlo, da stimolarlo a migliorare naturalmente. Esattamente, quindi il ragazzo legge ad alta voce in autonomia, il sistema lo registra e ne raccoglie tutti gli errori ed è l'unico sistema al mondo che riesce in questo momento a indicare chiaramente dove viene fatto l'errore e che tipo di errore viene fatto, raccogliendo e analizzando il dato. Ecco, e qui arriviamo all'ecosistema che sta intorno a questa app, che da un lato ci dice che cosa ce ne faremo di questi dati e dall'altro spiega anche da dove arrivano questi testi che facciamo leggere al ragazzo. Sì, esatto, perché comunque il ragazzo non può fronteggiare il problema da solo, quindi quello che abbiamo pensato con Read Runner è quello di creare un sistema composto di due strumenti. L'app è il primo strumento, quello che sta in mano al bambino. Dall'altra parte in realtà c'è una piattaforma web alla quale il genitore si registra. Il primo passo deve essere fatto dall'adulto. Il genitore che registra se stesso, registra il profilo del figlio e ha la possibilità di caricare i testi che al figlio servono o per fare i compiti scolastici oppure per leggere. Ecco, questo per dire, non sono dei testi che scegliete voi, sono dei testi che sono quelli che magari il ragazzo deve già leggere a scuola o che vuole leggere perché si spera gli interessano. E poi, ecco, e poi c'è anche qualcuno che vede i risultati del lavoro e anche l'evoluzione. Assolutamente sì, perché il genitore ha la possibilità di collegare al profilo del figlio un profilo insegnante ed eventualmente, se c'è, un profilo del terapista. In questo modo tutto l'ecosistema degli adulti ha la possibilità di fare quel monitoraggio in remoto, che è quello stesso che invece deve fare normalmente nella vita di tutti i giorni fianco a fianco del ragazzo, con una presenza costante molto ingombrante che spesso demotiva anche il ragazzo, che non riesce ad acquisire spazi di autonomia, che sappiamo quanto sono importanti soprattutto a quell'età. Senta, oltre ad aiutare, diciamo, la persona dislessica, Red Runner forse può aiutarci a capire un po' meglio anche proprio la dislessia, è così? Sì, può aiutarci a capire meglio la dislessia, perché chiaramente tutti questi dati in questo momento non sono disponibili. Certo. Sono dati che sarebbe molto oneroso raccogliere. Cioè vedere esattamente in tempo reale come uno impara, dove si blocca, su quale parola, che errori fa, e questo su magari migliaia, decine di migliaia di persone. Ecco, non esistono informazioni di questo tipo. No, al momento non esistono su decine di migliaia di persone, che quello speriamo di raggiungere. Certo. In Italia, dove ci sono già solo qui 150.000 ragazzi fra gli 8 e i 14 con problemi di dislessia, ma poi anche eventualmente in altri paesi, perché Read Runner esiste già e funziona in italiano e in inglese, ed è facilmente scalabile in tutte le lingue che si basano sull'alfabeto latino, quindi se funzionerà sarà possibile raccogliere dati massivi, massicci. È interessantissimo ricordare che la dislessia ha delle incidenze diverse a secondo delle lingue parlate nei vari paesi e che quindi anche questo sarà un elemento di studio molto interessante per capire meglio questo disturbo. Sì, questo ce lo dicono i dati, nel senso che sappiamo che a prescindere dall'età la dislessia colpisce fra il 5 e il 12% della popolazione nel mondo. Chiaramente questa variabile fra il 5 e il 12 è data da delle variabili di lingua e di cultura che sarebbe possibile forse studiare attraverso un po' meglio una raccolta dati di questo tipo, sì. Va bene, grazie. Grazie, grazie Cristina Perillo.